Victoria. La camera era immersa nel buio. Dal piano di sotto arrivavano le voci della televisione. Se cercava di parlare, la voce le usciva roca e le faceva male la gola, come quella volta che da piccola le si erano infiammate le tonsille. Le faceva male perfino piangere. La sera prima, in garage, quando Malte l'aveva schiacciata contro il furgone, aveva pensato di morire. Svenendo si era chiesta quante donne fossero morte in quel modo, uccise dall'uomo che avevano sposato con una smorfia di odio sul viso. Quando era rinvenuta sul freddo cemento del garage, era rimasta a terra per 2 ore a inspirare a fondo l'aria impregnata di benzina, prima di alzarsi sulle gambe tremanti e trascinarsi in casa. Malte non le aveva rivolto la parola, né era andato a vedere come stava. Se lo conosceva bene, aveva dormito sul divano, dopo aver bevuto birra e guardato partite e film porno. Non gli avrebbe mai più dato l'occasione di ucciderla, né a lui, né a nessun altro uomo. Le serviva aiuto, e le era venuto in mente un modo per procurarselo.